giorno. Germania, doveva essere estradato in Bulgaria l'attentatore siriano che si è fatto esplodere fuori da un ristorante di Ansbach. 12 i feriti, 3 sono gravi. La cancelliera tedesca invita a non generalizzare nell'accusa di terrorismo nei confronti dei rifugiati. Intanto è stato arrestato il 16enne che aveva chattato su WhatsApp con il giovane attentatore di Monaco. In arrivo, intanto, il divieto di zaini e borse all'Oktoberfest. I rappresentanti dell'Unione Europea non devono fare dichiarazioni minacciose sul fatto che la Turchia non potrà entrare nel blocco dell'Unione Europea. Non ci faremo scoraggiare dalle loro minacce. A parlare così questa mattina il ministro degli esteri turco Cavusoglu. Il presidente della Commissione Europea Juncker aveva detto che nell'attuale situazione la Turchia non è nella posizione di diventare a breve un membro dell'Unione Europea. Stipendi Rai, pubblicati quelli che superano i 200.000 euro e fra questi c'è anche chi è parcheggiato senza lavorare, ma il record è dell'amministratore delegato Antonio Campodall'Orto con 652.000 euro. Ritira il figlio dal centro estivo perché fra il personale figura un giovane arrivato dalla Guinea, titolare di protezione internazionale. Succede a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, ma la protesta su Facebook impazza degli altri genitori. Pessimo esempio per i bambini che vanno educati alla tolleranza e al confronto con il diverso, dicono. Al via la convention democratica a Filadelfia, una convention che parte malissimo, si dimette infatti la presidente del partito Debbie Wasserman Schultz, travolta dallo scandalo delle email che avrebbero rivelato favoritismi per Hillary Clinton a scapito di Bernie Sanders, un comportamento che Sanders ha definito indecente. Il Cremlino plaude alla decisione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, di non escludere tutti gli sportivi russi da Rio 2016 dopo lo scandalo doping. Ma il presidente russo Vladimir Putin non sarà alla cerimonia di inaugurazione. Buongiorno da Maria Piera Ceci. Allora, in apertura di Effetto Giorno andiamo in Germania, dove non è ancora chiaro come inquadrare quanto successo ad Ansbach, vicino Norimberga, dove un uomo si è fatto esplodere davanti ad un ristorante. Ve l'abbiamo raccontato nel corso della mattinata. Ebbene, il ministro dell'interno tedesco De Maizière invita a non generalizzare nell'accusare di terrorismo i rifugiati, anche se in alcuni casi dice ci sono indagini in corso. E anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, per bocca della portavoce, invita a non generalizzare nell'accusa di terrorismo nei confronti appunto dei rifugiati. La maggior parte dei terroristi, dice, che hanno compiuto attentati negli ultimi mesi non erano rifugiati. Ma ascoltiamo gli aggiornamenti di Laura Bettini. La dinamica è chiara e purtroppo ormai consueta. L'attentatore ha cercato di entrare nell'area in cui si svolgeva un concerto, ma non riuscendoci si è fatto saltare in aria all'ingresso, uccidendosi e ferendo 12 persone. Nach Ansbach. La matrice islamica è probabile, ha detto il ministro dell'interno bavarese, ma non ci sono prove di una correlazione tra la strage di Monaco e l'attentato di Ansbach, ha aggiunto la polizia criminale tedesca. Il terrorista è un 27enne siriano, cui era stato negato l'asilo e in attesa di essere estradato in Bulgaria. Soffriva di disturbi psichiatrici ed aveva già tentato il suicidio 2 volte. La stanza in cui alloggiava è stata perquisita e i suoi oggetti sequestrati, compreso ovviamente il cellulare, da cui si sa ha fatto una chiamata poco prima dell'attentato. Per la Baviera è stato un fine settimana tremendo, iniziato con la strage di Monaco, per la quale è stato arrestato ieri un afghano 16enne, amico dell'attentatore. Si erano conosciuti in una clinica psichiatrica, in chat condividevano la loro passione per i giochi violenti e Anders Breivik, l'autore dell'eccidio di Utøya. Il ragazzo probabilmente sapeva che l'amico si era armato e voleva uccidere. Ha tentato di cancellare le loro conversazioni in internet, ma gli inquirenti le hanno recuperate. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E agenzia proprio di pochi istanti fa, le porte dell'Europa sono e restano aperte per chi fugge da guerre, persecuzione e cerca asilo, ma ci difenderemo da chi cerca di attaccare il nostro modello di vita. L'ha detto il portavoce della Commissione Europea, Margaritis Schinas, riferendosi a quanto avvenuto in Germania. E stamattina, visto il nervosismo di questi giorni proprio in Germania, il sindaco di Monaco ha fatto sapere che intende vietare gli zaini e le borse all'Oktoberfest, una delle feste più note della Germania. Credo che la gente lo comprenderebbe dopo quello che è successo, ha detto alla TV bavarese. Intanto sia l'attentatore di Monaco sia quello di Hambach indossavano proprio zainetti. Il primo ci teneva dentro delle munizioni, il secondo l'ordigno che ha fatto esplodere, rimanendo ucciso. Ed è stata una mattinata molto nervosa quella di oggi anche a Londra per il timore di attentati. Per fortuna poi gli allarmi sono tutti rientrati. E allarme bomba anche a Ventimiglia, dove sono stati evacuati un mercato, alcune banche e alcuni negozi. Poi anche qui per fortuna tutto è rientrato. E registriamo anche una sparatoria in Florida, negli Stati Uniti, una sparatoria in un locale dove era in corso una festa di teenager. Due i morti, diversi i feriti. Ma al momento non si capisce cosa sia successo, una persona è stata arrestata, ma si esclude che ci sia di mezzo il terrorismo islamico. Andiamo in Turchia, una Turchia che a 10 giorni dal fallito golpe continua a effettuare le sue epurazioni da parte del presidente Erdogan, che accusa il golpe finanziato dalla CIA. In diretta da Istanbul il nostro Marco Barbonaglia. Buongiorno Marco. Buongiorno. Dopo la manifestazione di ieri, la più grande a Piazza Taksim dai tempi di Gezi Park, ma con una sensibile differenza, cioè ieri nella piazza simbolo di Istanbul per la prima volta manifestavano insieme il principale partito d'opposizione, il partito laico, il CHP, a fianco dell'HPP di Erdogan. La Turchia, dopo una giornata come quella di ieri, si sveglia con una nuova ondata di arresti, mandato d'arresto appunto per 42 giornalisti, tra i quali, secondo la CNN Turk, anche Nazlı Elecak, giornalista ex parlamentare licenziata nel 2013 dal quotidiano filogovernativo Sabah. Arrestati anche 31 accademici e altri 40 militari, ed è stata arrestata per esempio anche Kerime Kumash, l'unica pilota di aerei da combattimento del paese, ma per lei l'accusa è molto grave perché è quella di aver volato su uno degli F-16 che hanno attaccato il paese usati dai golpisti. Tutti sono accusati di essere collegati a Fethullah Gülen, l'imam che vive in Pennsylvania e che sarebbe la mente dietro il golpe, nemico comune che oggi unisce governo e opposizione, HPP e laici, sostenitori di Erdogan e kemalisti. E oggi il giornale Yeni Shafak, come dicevi, vicino al governo, ha pubblicato una foto di un militare con scritto "quest'uomo ha diretto il golpe", puntando così il dito contro John F. Campbell, comandante di una missione NATO in Afghanistan e ora in pensione da maggio, e quindi direttamente contro gli Stati Uniti e la CIA. Ultima notizia uscita sui media turchi in ordine cronologico questa mattina: il ministro degli esteri Mevlüt Çavuşoğlu ha risposto a Juncker, che aveva detto in sostanza che la Turchia al momento non può entrare nell'Unione Europea, anche con la questione della pena di morte in ballo, ha detto che i rappresentanti dell'Unione Europea non devono fare dichiarazioni minacciose sul fatto che la Turchia non potrà entrare nel blocco. Noi non ci faremo scoraggiare dalle loro minacce. E per il momento da Istanbul è tutto. Grazie Marco Barbonaglia. Dunque prosegue questo braccio di ferro con l'Unione Europea, e di cui torneremo a parlare nel nostro approfondimento europeo in onda alle 14.05 circa. Intanto veniamo alle cose italiane. Nei giorni scorsi erano già uscite le cifre, sono già usciti anche i nomi, ma risentiamoli dunque i nomi e gli stipendi dei dipendenti Rai che superano i 200.000 euro. Parte l'operazione trasparenza in casa Rai, ma anche prima della loro pubblicazione su internet fanno già discutere i maxi stipendi dei dirigenti del servizio pubblico superiori ai 200.000 euro all'anno. Questo perché prima di finire in rete sono stati già rivelati da alcuni quotidiani. Si va dai 650.000 euro dell'amministratore delegato Campodall'Orto ai 300.000 in media dei top manager e dei direttori di rete e di quelli dei TG. Ma a ricevere maxi compensi sono anche dirigenti e giornalisti rimasti ormai senza incarico. Gli stipendi dei ruoli apicali sono inferiori rispetto alla media di mercato, assicurano i vertici di Viale Mazzini, ma la loro operazione trasparenza prevista dalla legge alimenta però le polemiche politiche. I soldi dati a chi non fa nulla sono una vergogna, afferma il presidente del PD Orfini, mentre il suo partito starebbe già pensando di estendere anche alla RAI con la prossima legge di stabilità il tetto dei 240.000 euro annunciato dal premier Renzi per i manager pubblici. All'attacco è anche il Movimento 5 Stelle, che con Di Battista accusa Viale Mazzini di chiedere il canone per pagare stipendi pazzi e vergognosi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Buongiorno a Mirella Liuzzi, membro della Commissione di Vigilanza RAI, Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, i numeri, le cifre non sono ancora ufficiali, usciranno poi in giornata, ma insomma sono verosimili, sono già usciti nei giorni scorsi, sono cifre da brivido, lo possiamo dire? Certo, diciamo, sono assolutamente irragionevoli. E finalmente dopo 20 anni cala il velo sugli stipendi dei manager RAI, cosa impossibile fino a qualche anno fa, che è avvenuto anche grazie alla spinta del Movimento 5 Stelle sulla trasparenza che abbiamo fatto durante la discussione della governance RAI. Ecco Liuzzi, però oggi sui giornali tutti dicono che è colpa di qualcun altro. Allora, sono 30 anni che va avanti così, lo dicono praticamente tutti, lo dice anche Fico, suo compagno di partito, però poi non si capisce a questo punto chi deve intervenire. Appunto, suo compagno di partito Fico dice che deve intervenire il governo, Orfini oggi su Repubblica del PD dice che invece deve intervenire l'azienda stessa. Insomma, Liuzzi, chi è che deve mettere mano a questa questione? Soprattutto perché veramente davvero vergognoso il fatto che molti vengano pagati poi anche per non lavorare, per stare chiusi in qualche ufficio, forse a scrivere libri? Sì. Anche. Allora, su questa norma potrebbe intervenire immediatamente il governo, sia con la legge di stabilità, sia con una proposta ad hoc. Questa proposta fu fatta già dal Movimento 5 Stelle l'anno scorso, durante la legge di stabilità, presentai io direttamente l'emendamento, la proposta di modifica, che fu anche in quel momento bocciata dal Partito Democratico e dal governo. Per fortuna ci sono gli stenografici che dimostrano quanto sto dicendo. È anche vero che anche lo stesso direttore generale, quindi anche non serve per forza una legge per tagliarsi lo stipendio, mettiamola così. Noi del Movimento 5 Stelle l'abbiamo fatto tagliandoci lo stipendio senza una legge, quindi possono farlo tranquillamente anche i dirigenti della RAI e i membri del Consiglio d'amministrazione RAI se davvero vogliono dare un segnale. Però dall'orto dice è troppo complicato, bisogna aprire un tavolo con i sindacati, poi c'è tutta la questione dei contratti, meno male insomma che esistono anche dei contratti, ci mancherebbe. E insomma dice anche Campo Dall'Orto che lui ha le mani legate, il governo non può intervenire, voi dite insomma che invece deve intervenire il governo. Sì, potrebbe farlo veramente da subito, quindi anche ci sono queste due strade. C'è anche da sottolineare il fatto che molti sindacati RAI hanno denunciato il fatto che siano stati molto spesso ingaggiati e quindi assunti delle persone esterne, dei giornalisti esterni alla RAI, non valorizzando le risorse interne della stessa RAI. Quindi c'è anche questo duplice aspetto. E certo, stipendi elevatissimi, ma anche ricorso ingiustificato a consulenze esterne, perché ci sono anche le consulenze esterne al di sotto degli 80.000 euro che saranno pubblicate ufficialmente stasera. Quindi anche su quello bisognerà fare una giusta riflessione. Ho capito. Un altro anno di questi tempi sarebbe, perché adesso la legge consente, anzi obbliga, no? La pubblicazione degli stipendi, staremo ancora qui a discutere di questi stipendi, a mangiarci le unghie, perché insomma fa venire davvero un po' rabbia quando peraltro stanno arrivando a casa i bollettini per pagare il canone della RAI, no? Esatto, infatti questa è la cosa più vergognosa, però questo è stato possibile anche grazie alla trasparenza in questi stipendi. Quando c'è trasparenza, quando semplicemente si pubblicano i dati in chiaro, succede anche questo, succede che i cittadini conoscono, succede che i cittadini si indignano e possono anche accadere delle modifiche che speriamo accadano subito, una limitazione immediata e improvvisa per non superare più questo tetto dei 240.000 euro. Quindi la trasparenza serve anche a questo. Liuzzi, viene un po' voglia di non pagarlo questo canone in questi giorni? Viene davvero voglia? Ma io credo non solo per gli stipendi faraonici, ma anche per la qualità dell'informazione che spesso non è adeguata. Pensiamo al prossimo palinsesto RAI, dove ci saranno delle vecchie new entry, possiamo chiamarle così, ci sarà una Domenica In con Pippo Baudo, ci sarà il ritorno di Lolera Cuccarini, Gal Lerner, insomma ci sono questi... Di cui però non sappiamo nulla, perché in realtà delle star non sappiamo gli stipendi. Esatto, gli stipendi delle star artistici, quelli non sappiamo nulla, nonostante noi abbiamo chiesto che venissero pubblicati anche questi. Però c'è anche l'aspetto informativo, l'aspetto proprio editoriale, artistico, che preoccupa e che fa veramente chiedersi ai cittadini: ma perché pagare questo canone RAI, che anche se è sceso ed è stato inserito in bolletta tramite uno stratagemma anche articolato dal governo, su cui bisognerebbe anche parlare, ma perché pagarlo per avere un servizio del genere? E poi vedere degli manager che hanno degli stipendi allucinanti, perché poi questo è lo schiaffo certo, insomma, parte del canone è lì che va, poi insomma è inutile nasconderlo. Grazie a Mirella Liuzzi, membro della Commissione Vigilanza RAI e membro del Movimento 5 Stelle, grazie mille. Noi restiamo sulla politica, perché da oggi all'esame dell'Aula della Camera, ma per la proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis, la strada è ancora tutta in salita. Quasi certamente, infatti, il provvedimento sarà rinviato, almeno dopo la pausa estiva. Troppi gli emendamenti, in tutto sono 1700, messi in campo dai deputati di Area Popolare. Non possiamo parlare di giovani e poi abbandonarli. Alcol e droga sono una piaga in questo momento, dice il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Si è fatto passare, aggiunto, un messaggio per cui è normale drogarsi, prendere la pillola per essere magri, per avere muscoli, per fare sesso. Si fa politica sulla cannabis, ma come si fa a fare politica sugli adolescenti, si chiede il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Cambiamo argomento, è la settimana delle banche e dell'esame europeo sulle banche soprattutto. Venerdì la diffusione dell'esito degli stress test condotti dall'autorità bancaria europea, l'EBA. Stress test che vigilano, lo ricordiamo, sulla tenuta della struttura finanziaria appunto delle banche, degli istituti di credito. 5 quelli italiani coinvolti, Intesa, Unicredit, UBI, Banco Popolare, MPS. E soprattutto questa... E insomma, rischia una bocciatura, è un rischio o è ormai una certezza? Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ma è chiaro che finché non saranno esposte le pagelle non si avrà la certezza, però insomma... Poche speranze. Sì, dall'aria che tira nelle ultime settimane il risultato negativo del Monte dei Paschi ormai sembra quasi certo. Tanto è vero che la banca già da settimane lavora sul dopo, cioè sul come recuperare quello che manca. E tant'è vero che anche oggi scivola in borsa, ma di questo parleremo più avanti con i colleghi di Radio Cor. Sì, esattamente, perché se come sembra venerdì arriverà l'amara sentenza, subito dopo il Monte Paschi dovrà fare quello che la vigilanza, cioè la BCE, chiede, ovvero vendere 27 miliardi di sofferenze, che praticamente equivarrebbe alla più grande cartolarizzazione di crediti deteriorati che si sia mai fatta in Italia. Purtroppo manca però tutta una serie di via libera, in particolare quello della BCE all'operazione, perché una volta che venderà i crediti deteriorati dovrà fare un aumento di capitale, bisogna capire di quanto, bisogna capire in che termini. La BCE è stata informata di quelli che sono i progetti del Monte, ma per ora non ha ancora detto sì. Speriamo che lo dica entro venerdì, perché a quel punto la bocciatura sarebbe meno amara. Di questa oggi. Situazione di incertezza sicuramente, situazione di incertezza che invece non riguarderebbe gli altri 4 istituti di credito, giusto? Sì, esatto, diciamo che le previsioni sulle altre 4 sono decisamente più positive, in particolare Intesa, che ormai da qualche anno fa un po' la prima della classe, dovrebbe essere confermata, quindi dovrebbe essere nella parte alta della classifica, quindi superare brillantemente questa prova, che diciamo una prova sotto sforzo, che di fatto i conti delle banche sono stati sottoposti a uno scenario per ora, per fortuna, ipotetico, ma uno scenario molto grave, con il PIL meno 5-7%, quindi Intesa molto bene, ma bene anche le altre, quindi UBI, Banco Popolare che si sta per sposare con BPM, e tutti i crediti. Grazie Marco Ferrando, che naturalmente questa settimana ci aiuterà a vivere questa attesa molto nervosa, in attesa della pubblicazione degli stress test. Grazie a Marco Ferrando, noi ci fermiamo per qualche istante, Strade in diretta. Effetto giorno. Germania, doveva essere estradato in Bulgaria l'attentatore siriano che si è fatto esplodere fuori da un ristorante di Ansbach. 12 i feriti, 3 sono gravi. La cancelliera tedesca invita a non generalizzare nell'accusa di terrorismo nei confronti dei rifugiati. Intanto è stato arrestato il 16enne che aveva chattato su WhatsApp con il giovane attentatore di Monaco. In arrivo il divieto di zaini e borse all'Oktoberfest. E in Florida, sparatoria in un nightclub dove era in corso una festa di teenager, 2 morti, uno aveva appena 12 anni, oltre 10 i feriti, ma il terrorismo islamico qua non c'entra nulla. Stipendi Rai, la pubblicazione di quelli che superano i 200.000 euro fa molto discutere, fra questi c'è anche chi è parcheggiato senza lavorare, ma il record è dell'amministratore delegato Antonio Campodall'Orto con 652.000 euro. Al via la convention democratica a Filadelfia, una convention che parte malissimo. Si dimette infatti la presidente del partito Wasserman Schultz, travolta dallo scandalo delle email che hanno rivelato favoritismi per Hillary Clinton a scapito di Bernie Sanders, il quale dice: è una cosa indecente. Il Cremlino applaude alla decisione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, di non escludere tutti gli sportivi russi da Rio 2016 dopo lo scandalo doping, ma il presidente russo Vladimir Putin non sarà alla cerimonia di inaugurazione. E noi siamo invece al capitolo Brexit, perché la Gran Bretagna cerca di rassicurare sulle conseguenze dell'esito del referendum e la neo premier Theresa May oggi è in visita a Belfast. A meno di 2 settimane dalla sua investitura ufficiale dopo Scozia e Galles, la premier britannica Theresa May conclude oggi con l'Irlanda del Nord il suo tour nei paesi del Regno Unito. Dopo il voto del 23 giugno sull'uscita dall'Unione Europea, è in visita a Belfast per cercare di rassicurare sulla possibile imposizione di controlli alle frontiere e di nuove misure doganali. Londra, ha ricordato Downing Street, intende coinvolgere il governo dell'Irlanda del Nord nella preparazione della Brexit. Ho messo in chiaro che renderemo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea un successo, ha sottolineato la leader dei conservatori. Ciò significa che questo deve valere anche per l'Irlanda del Nord, comprese le sue relazioni alla frontiera con la Repubblica d'Irlanda, membro dell'Unione Europea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torneremo a parlare di questo alle 14.05 circa nel nostro approfondimento europeo. Noi invece rientriamo in Italia, andiamo a Peschiera Borromeo nel Milanese. Una bella storia questa che voglio raccontare, perché a fronte di una madre che, pensate, ha ritirato il figlio dal centro estivo perché la cooperativa che lo gestiva aveva inserito un giovane rifugiato della Guinea. Tutti gli altri genitori invece cosa hanno fatto? Questi genitori di bambini che avevano iscritto al centro estivo non solo li hanno mantenuti, ma si sono anche ribellati su Facebook. Hanno detto, insomma, non è così che si educano i bambini anche al rispetto degli altri. Allora siamo in collegamento con il sindaco di Peschiera Borromeo. Salutiamo Caterina Molinari, sindaco appunto di Peschiera. Buongiorno, buongiorno. Lei che idea si è fatto di tutta questa storia? Perché io ho voluto girarla in positivo. È vero, sì, che c'è una mamma che, insomma, non ha voluto che il figlio frequentasse una zona, insomma un centro dove comunque girasse un ragazzo in arrivo dalla Guinea, peraltro un rifugiato politico, quindi evidentemente, insomma, una persona che è giusto che ci sia nel nostro paese, no? È già stato riconosciuto come tale. Lei che idea si è fatto di questa vicenda? Esatto, la vicenda ci ha molto stupito, anche perché il ragazzo in questione è già il secondo anno che svolge attività di volontariato all'interno del centro estivo di Peschiera Borromeo, sempre sotto la supervisione della stessa cooperativa sociale. Tra l'altro l'anno scorso la relazione di fine anno era molto positiva, sia dal punto di vista della crescita del ragazzo all'interno dell'attività che svolgeva, sia dal punto di vista della risposta dei bambini all'inserimento di Lamin, questo è il suo nome, all'interno delle attività. Ci ha molto sorpreso, ma in realtà crediamo che l'enfasi data alla vicenda sia legata da un lato agli eventi internazionali che stanno accadendo in questi giorni, dall'altro all'inserimento paventato da parte della prefettura di altri 300 migranti sul territorio di Peschiera Borromeo. Cioè, da voi sono in arrivo altri 300 migranti? Sarebbero in arrivo altri 300 migranti? Sarebbero in arrivo, ovviamente come amministrazione stiamo lavorando affinché questo inserimento venga scongiurato e lavorando veramente. Perché quanti ne avete fino adesso? Noi ne abbiamo circa 45 già sul territorio. Vabbè, 45 non sono poi tantissimi. Esatto, no? Su una popolazione di 23.000 abitanti. Quindi il comune di Peschiera Borromeo già fa il suo nell'accoglienza e nell'integrazione di queste persone. E l'aver inserito un ragazzo che ha delle buone capacità di adattamento e l'ha dimostrato lo scorso anno è per noi motivo di orgoglio, insomma. Assolutamente. Senta, proprio oggi sui giornali, perché insomma questa situazione, come spiegava anche lei, sicuramente è paradossale e, voglio dire, sarà stata una mamma con qualche problema suo, voglio dire, evidentemente, ma detto questo dimostra che c'è grande nervosismo intorno, esatto, al tema dei migranti. Oggi sui giornali questa classifica, la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100.000 profughi, 3 comuni su 4 non li accolgono, quindi anche lei, insomma, quello che auspica auspica che ci sia una distribuzione più equa, che tutti possano ospitare la loro parte di migranti, di modo che non gravino su pochi comuni. Il comune di Peschiera risulta tra i 15 comuni virtuosi, diciamo, della provincia di Milano, dei 134 comuni della provincia di Milano, ce ne sono solo 15 che rispettano le quote di proporzionalità stabilite dal Ministero degli Interni. Chiediamo, e questo è il lavoro che stiamo facendo anche come amministrazione, più collaborazione da parte di tutti i comuni, perché è una vicenda che colpisce tutti, non solo alcuni comuni, ed è giusto che tutte le amministrazioni si facciano carico dell'accoglienza e dell'inserimento di questi migranti sul territorio, in maniera che sia effettuato in modo diffuso e non puntuale, gravando singoli comuni. Grazie, grazie a Caterina Molinari, sindaco di Peschiera Borromeo, grazie mille. E noi andiamo avanti invece con l'iniziativa di Radio 24 contro i femminicidi, oggi nuova puntata. Radio 24, dalla parte delle donne. Nel delitto del Circeo di 40 anni fa, la malattia incurabile di essere maschi. Ne parla il libro che ha vinto il Premio Strega 2016. In La scuola cattolica, Edoardo Albinati racconta l'educazione ricevuta negli anni 70 in un istituto religioso della capitale, lo stesso frequentato dagli autori del massacro del Circeo. Lo ha intervistato Alessandra Tedesco. Io ho vissuto proprio, i personaggi di questo libro, quasi tutti, vivono quell'epoca di passaggio in cui, diciamo così, i vecchi modelli virili andavano in pezzi. Quello vecchio non era più adatto, quello nuovo ancora latita, secondo me ancora non è stato trovato. Allora, quando si cresceva noi altri in questa atmosfera, penso che qualcuno, come poi è avvenuto, abbia pensato di restaurare violentemente un modello, diciamo, di prevaricazione, di sopraffazione. È un episodio di quella che io definisco una rappresaglia, cioè nel momento in cui l'onda dell'emancipazione femminile è al suo culmine, delle, diciamo così, guardie armate o delle minoranze violente ricordano sul corpo di alcune donne, ricordano a tutte le donne che il dominio rimane nelle mani del maschio, e comunque questo periodo di latenza si è inaugurato più o meno in quegli anni e ancora non è terminato. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pagina economica, ancora un aumento delle compravendite immobiliari, si tratta del quarto trimestre consecutivo di aumenti. L'Istat registra nel primo trimestre 2016 una crescita di quasi il 18% di atti notarili rispetto all'anno precedente. Prosegue inoltre l'andamento positivo di mutui e altre obbligazioni con ipoteca immobiliare in espansione di quasi il 30%. A Genova, presentata questa mattina la nuova edizione del Salone Nautico. Per la 56esima volta il mondo del mare e delle barche elegge Genova capitale internazionale della nautica. Organizzata come sempre da Ucina, la Confindustria Nautica, dal 20 al 25 settembre la nuova edizione del Salone prenderà il largo sospinta da un vento favorevole che ormai soffia con regolarità sul comparto dopo gli anni tempestosi della crisi. La ripresa è cristallizzata nei dati. Nel 2015 si è registrata una crescita del 12% e le previsioni per il 2016 sono confortanti. Si vendono più yacht, ma si vendono anche più gommoni e barche di piccole dimensioni. Lo dice un numero. In Italia nel 2015 il mercato dei motori fuoribordo ha fatto segnare un aumento del 44%. Al di là delle polemiche e delle divisioni all'interno della categoria, la 56esima edizione del Nautico terrà la barra dritta, puntando sulla passione, sulla tradizione consolidata, sul legame forte con la città. 750 gli espositori che hanno investito di più rispetto agli anni scorsi, giornalisti da tutto il mondo a raccontare le novità di una delle più prestigiose espressioni del Made in Italy, e poi convegni, spettacoli e tanta voglia di mare. Appuntamento alla Fiera di Genova dal 20 al 25 settembre. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Ci fermiamo un istante per la pubblicità. Effetto giorno. Germania, doveva essere estradato in Bulgaria l'attentatore siriano che si è fatto esplodere fuori da un ristorante di Ansbach. 12 i feriti, 3 sono gravi. La cancelliera tedesca invita a non generalizzare nell'accusa di terrorismo nei confronti dei rifugiati. Intanto è stato arrestato il 16enne che aveva chattato su WhatsApp con il giovane attentatore di Monaco. In arrivo inoltre il divieto di zaini e borse all'Oktoberfest. Stipendi Rai, la pubblicazione di quelli che superano i 200.000 euro. Fra questi c'è anche chi è parcheggiato senza lavorare, ma il record è dell'amministratore delegato Antonio Campo Dall'Orto con 652.000 euro. Verizon conferma il raggiungimento di un accordo per l'acquisto di Yahoo. L'operazione vale 4,8 miliardi di dollari. L'intesa riguarda le attività internet di Yahoo, che ha annunciato che cambierà anche nome. Il Cremlino applaude alla decisione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, di non escludere tutti gli sportivi russi da Rio 2016 dopo lo scandalo doping, ma il presidente russo Vladimir Putin non sarà alla cerimonia di inaugurazione. Ora le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Eccoci qua, allora il tormentone estivo, quello del calciomercato, anche quest'anno piuttosto ricco, è ripartito. Allora Carlo, dici sì. Le ultime in diretta, poi ne riparlerai nella tua trasmissione fra poco. Direi mai così interessante e movimentato. Innanzitutto si sta per concretizzare il trasferimento record per il calcio italiano, come sappiamo il passaggio di Higuaín dal Napoli alla Juventus per 90 milioni di euro. Nei prossimi giorni l'ufficialità, Higuaín non andrà in ritiro con il Napoli a Di Maro, si trasferirà appena avrà l'ok direttamente a Torino dalla Spagna, dove si trova ancora in vacanza. E poi c'è Napoli che con questa montagna di soldi deve correre ai ripari, ha bisogno di un altro attaccante, si segue Icardi dell'Inter, è stata ufficializzata, è stata fatta un'offerta ai nerazzurri, una quarantina di milioni di euro, lo ha detto anche oggi il direttore generale dell'Inter Piero Ausilio, però l'offerta è stata rispedita al mittente e si dice che Di Cardi è incedibile. Dunque questi sono i giri di mercato in attesa dell'ultimo tassello, il più pregiato, che dovrebbe portare Pogba dalla Juventus al Manchester United per 120 milioni di euro, il trasferimento più caro della storia del calcio. E intanto ci avviciniamo lentamente ma inesorabilmente alle Olimpiadi. Stamattina sì. Putin ha fatto sapere che non andrà alla cerimonia d'apertura dei Giochi di Rio, nonostante poi non gli sia andato tanto male. No. Diciamocelo. No, rapporti tesi tra, insomma, tra la Russia e il CIO. A dir poco. Sebbene il CIO abbia preso questa decisione, cioè di non escludere in toto gli atleti russi, ma di delegare, di lasciare alle singole federazioni, quindi ai singoli dirigenti di ogni sport, il compito di selezionare gli atleti e di inviare le delegazioni che risultino totalmente pulite, che non nulla abbiano a che fare con faccende di doping. Dunque vedremo, se non l'atletica leggera russa, vedremo a Rio altri sport provenienti da lì. Tra l'altro, notizia di pochissimi istanti fa, quindi neanche tu puoi averla vista. Siamo rammaricati dalla decisione del CIO di non accreditare il ministro dello sport russo Vitaly Mutko per le Olimpiadi appunto di Rio, come stavamo dicendo, l'ha dichiarato il portavoce di Putin. L'agenzia antidoping mondiale, la famosa WADA, che ormai abbiamo imparato a conoscere, accusa il ministero di cui è a capo Mutko di aver coordinato il presunto sistema di doping di stato russo con l'aiuto dei servizi segreti. Quindi Lui è il grande imputato, l'imputato numero uno. E sì, quindi gli atleti, ma almeno lui no, se ne sta a casa. Non mi sembra sbagliato, Piero, in questo tutto momento. Sommato, salviamo tutto almeno sommato. Insomma la faccia. Grazie mille Carlo, ne riparlerai sicuramente queste cose nella tua trasmissione fra pochissimo. Noi invece ci fermiamo per ascoltare le ultime d'Oltreoceano, America 24 con Mario Platero.